La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere B e H del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse regionale sulla base del principio di sussidiarietà. Anche il nuovo articolo 118 ha quel profumo di federalismo che il legislatore di riforma costituzionale ha cercato di impiantare nella nostra Costituzione con la riforma del 2001. L'articolo 118 riguarda in particolare le funzioni amministrative e quindi le competenze dell'amministrazione. A chi spettano le competenze amministrative? Tradizionalmente spettavano allo Stato, invece nel nuovo modello dell'articolo 118 e nel nuovo modello di federalismo spettano ai comuni, quindi le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per garantirne un esercizio unitario vengano attribuite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Anche qui assistiamo a una specie di ascensore, un ascensore delle competenze. Le competenze vanno assegnate all'ente più vicino ai cittadini, perché il cittadino deve riuscire a guardare in faccia la pubblica amministrazione, deve avere un contatto più diretto possibile. Ed ecco allora che invece, in alcuni casi ovviamente, la competenza amministrativa deve essere posta a livello più alto. E quindi sarà la legge a stabilire che vadano competenza alle province, alle regioni e allo Stato sulla base di tre principi: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che ad esempio la competenza sull'anagrafe spetta sicuramente ai comuni, perché l'anagrafe dei cittadini è nei comuni. La competenza sulle strade andrà collocata invece alle province o addirittura alle regioni, perché ovviamente le strade collegano territori più ampi. E invece ancora la competenza sull'immigrazione va assegnata allo Stato, perché deve essere lo Stato in maniera unitaria a gestire un problema che riguarda tutto il territorio nazionale come l'immigrazione. L'ultimo comma dell'articolo 118 riguarda quella che viene chiamata la sussidiarietà orizzontale. Sussidiarietà orizzontale significa che lo Stato, le regioni, le città, la provincia, i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Quindi l'articolo 118, l'ultimo comma, fa un riconoscimento importantissimo, cioè il ruolo attivo dei cittadini a svolgere funzioni di interesse generale proprio per affiancare e integrare lo Stato. Pensiamo a tutto il mondo del volontariato, del cosiddetto terzo settore. Con il 2001, con questo comma, hanno ricevuto un riconoscimento importantissimo.